allegro mentr'io sospiro, felice un cervolino. È un bene che il vano che sia, e il possedere dovrà. Vedrò per mano d'amore unito vile oggetto, chi me resta un affetto che per me poi non ha, che per me poi non ha. Vedrò mentre io sospiro, felice un servo mio, vedrò che un bel ch'io desio seder dovrà. Vedrò per man d'amore unito un vile oggetto, chi me desta un affetto che per me poi non ha, che per me poi non ha. Vedrò, vedrò, vedrò, vedrò. A non lasciarti in pace, dopo questo contento, tu non nascesti audace, tu non nascesti audace, per dare a me tormento, e forse ancora per ridere di mia infelicità. Già la speranza sola, delle vendette mie, quest'anima consola, e giubilarmi fa, e giubilar, e giubilarmi fa. Ah, che lasciarti in pace, non vo questo contento, tu non nascessi audace, per dare a me tormento, e forse ancora per ridere di mia infelicità. Già la speranza sola delle vendette mie, questa anima consola, e giubilar mi fa, e giubilar, e giubilar mi fa, e giubilar, e giubilar. E giubilar mi fa, e giubilar mi fa.